mani sotto la t-shirt, Marlon Brando, questioni di tango, metto in vendita il tuo sex appeal. Ogni notte cambi faccia, cambi stile, cambi, cambi, cambi, cambi parole. Latin lover, Latin lover. Sigarette fumate di fretta, gli occhi frugano nei decolte. Vedi Ornella muta, muta, che si cuce la bocca per te. Mentre tu stai cambiando macchina, cambiando motore, Latin lover, Latin lover, Latin lover. Latin lover, yeah. Stai con le tue foto, stai con i tuoi trucchi, stai parla della notte, stai con i tuoi disegni, stai con le tue storie storte, parla della notte. Schiare le carte per vedere quello che non c'è. Fai l'amore allo specchio di notte col suo negligee. Ogni volta cambi stile, cambi dieta, cambi, cambi, cambi emozione. Latin lover, hey! Latin lover. Genio fuori di testa stasera, capisce perché sei così. Beve birra, non parla di guerra, vuole feeling subito.